Il gastronauta di Davide Paolini. Buona giornata a tutti, buona giornata ai gastronauti e a tutti i radioascoltatori. Noi arriviamo in coda al Vinitaly che si è chiuso appunto ieri l'altro, e arriviamo in coda e magari tireremo un po' anche le file di quello che è successo. Parleremo di un argomento credo abbastanza importante in questo momento. Nel tempo il fattore di successo dei vini è cambiato. Un tempo era il vitigno, poi il territorio, poi ancora oggi bio e la mancanza di solfiti, ma ne rimane sempre uno, che è la marca di un'azienda che nel tempo, magari attraverso la storia, la tradizione, la professionalità, la qualità del vino, ha continuato a mettere successi. Quindi la marca, diciamo che passano tanti altri elementi, tanti altri fattori, però la marca rimane. E allora io voglio chiedere ai nostri ospiti, che man mano succederanno qui negli studi del Vinitaly a Verona, e gli chiederemo appunto questo: secondo loro quale sarà il fattore di successo nel futuro? Bene, abbiamo con noi Jacopo Biondisanti, e credo che sia un marchio importante questo. Biondisanti è un marchio nel mondo, un marchio che ha fatto la storia del Brunello di Montalcino. Ma dentro a questo vino c'è un vino importante, un territorio importante, e Biondisanti un marchio importante. Allora voglio chiedere a Jacopo Biondisanti, secondo lui, quale sarà il fattore di successo nei prossimi 10 anni? È una domanda molto difficile. Comunque direi che tutti gli argomenti che lei ha toccato, non è che prima c'era uno, poi l'altro, poi un altro ancora, si aggiungono tutte queste cose. La cosa principale per un vino di grande successo e di grande qualità è la tipizzazione del prodotto, che non deve venire da metodi di cantina, ma semplicemente dal territorio, e quindi dal cru, e quindi dalla microzona, che tipizza quel tipo di risultato che viene da quel tipo di vitigno in quella microzona. E questo è il primo punto. Poi c'è il fattore qualitativo, che è un fattore oggi oggettivo a tutti, perché la qualità intesa come correttezza del prodotto si ottiene dappertutto. E le radici quindi sul territorio sono le cose principali. E dopo c'è il fattore immagine marca, come giustamente hai detto, e la marca però si costruisce in tanti tanti anni di grande sforzo, di comunicazione soprattutto, e di serietà commerciale. Certo che non è facile oggi poter raccontare al consumatore finale quali sono le emozioni, perché poi si tratta di questo all'inizio della produzione, e la tipizzazione del prodotto per come la studia o la crea il produttore. Quindi è un fattore questo molto delicato da affrontare, e è la parte più difficile, direi, oggi. Beh, chiediamo invece a un'azienda giovane, l'azienda Boroli, che diciamo da un po' di anni ha cominciato a produrre nelle Langhe, quindi un grande vino come il Barolo. Io voglio chiedere a Achille Boroli, che è diciamo il rampollo di famiglia che si occupa dell'azienda, che recentemente appunto nella sua azienda ha organizzato un incontro proprio sul tema della marca. E allora Boroli, La marca conta anche per Boroli. Cos'è emerso da questo convegno? Ma innanzitutto buongiorno a tutti. La marca sicuramente conta anche per Boroli. Abbiamo organizzato il Boroli Wine Forum ad Alba, dove sono intervenuti tra i marchi più prestigiosi italiani ed internazionali. È venuto fuori che bisogna puntare sulla marca del vino, della singola etichetta, bisogna puntare sulla marca del territorio. Noi in Italia abbiamo la fortuna di avere dei grandi territori che sono comunicati in tutto il mondo: Barolo, Brunello, ma già solo anche il nome Italia è una marca, un brand che dobbiamo portare all'estero. Dobbiamo essere costanti, dobbiamo cercare, anche assumendosi dei rischi, di portare sempre con il grande sforzo sempre la qualità del territorio. Ma Biondi, senti, ultimamente questo problema dei solfiti, che è emerso come un boom, come non fossero mai esistiti, all'improvviso mal di testa generali che arrivavano dai solfiti, allora ora c'è la grande corsa vino senza solfiti, lei cosa ne pensa? Beh, il vino senza solfiti la vedo dura per un vino da grande invecchiamento o per vini bianchi soprattutto. Sicuramente la tecnologia, diciamo, va avanti, la chimica pure, per cui arriveremo anche a questo, però non è un fattore importante questo qua, perché questi grandi mal di testa che sono esplosi dappertutto forse dipendevano dalla parte cibo più, diciamo, che dalla parte vino. Oppure dicevo che si beveva un po' troppo, forse. Oppure, ma soprattutto direi forse che si beveva troppo alcol invece che troppo vino, forse era meglio rimanere sul vino invece che andare su tutte i vari settori dell'alcol, che sono delle strade molto complicate e che lasciano il segno poi. Achille Boroli, ma lei cosa ne pensa del bio, cioè questo termine che sembra abbia una grande fortuna? Ma sicuramente se ne parla tantissimo. Dal mio punto di vista, da quello che è anche emerso dal forum che abbiamo tenuto, bisogna rispettare la natura, bisogna dare dei prodotti buoni, bisogna continuare ad investire, studiare sia il territorio che in cantina con la tecnologia, che è fondamentale. Che poi se un vino è bio o non bio, il vino deve essere buono e longevo. Ho visto Biondi Santi che scuoteva la testa. No, non è che scuoto la testa, è che io purtroppo ho le mie idee e sono un attimino forse un pochino... parlare di bio nell'ambito dell'agricoltura mi sembra una cosa un pochino... fuori dalla norma, perché bio, che significa oggi tutto il prodotto agricolo è geneticamente modificato da più di 30 anni, da partire dal grano a venire giù. Parlare di bio nel mondo del vino, il vino rosso e il vino bianco sono biologici di suo, perché se no non andrebbero in bottiglia con quel tipo di qualità, e quindi non solo, ma ci sono percentuali alcoliche, tannini eccetera, che fanno di questo prodotto già un prodotto disinfettato e sistemato. Avrei forse il desiderio che invece di parlare tanto di bio e di riempirsi la bocca di tutte queste parolone, si parlasse seriamente di lotta guidata, come giustamente diceva prima. L'importante è rispettare il territorio con una lotta guidata, mirata, perché oggi ci sono tutte le caratteristiche per poterlo fare, e la cantina chiaramente che deve avere i suoi canoni e le sue regole. Il gastronauta. Di nuovo buona giornata, cari radioascoltatori. Proseguiamo, diciamo, a parlare di vino dopo che si è chiuso il Vinitaly a Verona, quindi una grande settimana tutta dedicata al vino, ed è anche giusto, perché ricordiamocelo, il vino è la voce più importante della nostra bilancia commerciale. L'export del vino influisce decisamente sui nostri conti sull'estero, quindi deve essere tenuto in debita considerazione, anche se la verità è che il mercato interno è decisamente calato, il consumo è calato, però tiene l'estero, il che vuol dire che il made in Italy del vino è sempre una grandissima ricchezza per tutta l'economia nazionale. Bene, nel tempo, diciamo che i plus, perché è latino plus, non pronunciate plus, i plus del vino sono cambiati o si sono assommati: territorio, vitigno, marca. Poi ultimamente si sono aggiunti dei valori senza solfiti, bio, però diciamo che alcuni rimangono di fondo. E allora abbiamo con noi Giovanni Geddes della Filicaia, amministratore delegato di Ornellaia, nonché del gruppo Frescobaldi. E l'Ornellaia ha un vino molto prestigioso, e poi è diventato un marchio di grande conoscenza in giro per il mondo, ma anche di grande apprezzamento da parte di tutti i consumatori, e anche di consumatori di grandissimo livello, nonostante il prezzo. Geddes, cosa ne pensi? Beh, cosa penso di tutto quello che mi hai detto? Intanto il vino è comunque legato a un suo territorio, il vitigno che a un livello elevato non deve essere mai riportato sulla bottiglia, è comunque legato allo stesso territorio, perché certi vitigni sono coltivati in certi territori, per cui il marchio è legato al vitigno e al territorio. Però il marchio, nella visione di un grandissimo vino, deve restare legato al territorio, ma è quello che deve essere la vera garanzia della qualità assoluta di quel prodotto lì. Bene, ci sono però territori in Italia che fanno agio, sì, molte certamente. Volte sul marchio, ad esempio il Chianti, cioè il Chianti Classico. Allora, Chianti e Chianti Classico, ti devo dire che purtroppo non fanno più tanto agio, perché se vedi il valore dello sfuso è abbastanza relativo, e il plus o il plus, come vuoi dire in latino, che dà il Chianti Classico di per sé è oggi limitato. Se quello però, in particolare ancora di più per il Chianti Classico o per certe sotto denominazioni come la Rufina, è legato a un marchio specifico, allora il plus è una sommatoria dei tre fattori. In assoluto, se vuoi, in Toscana c'è un territorio, ora te l'ha detto Jacopo Biondi Santi, che sono i fondatori del Brunello, dove c'è il Brunello che fa probabilmente agio su tutto il resto, e tutti i produttori di Brunello comunque sia si appoggiano sulla denominazione. Bene, abbiamo con noi anche un altro diciamo esponente importante del vino italiano, Maurizio Zanella, che è presidente del consorzio di Franciacorta, di OCG, perché sennò lui si arrabbia, e anche diciamo patron di un noto marchio che è Cala del Bosco. E allora io voglio giocare con le due magliette con Maurizio Zanella. La prima, quanto riguarda il territorio. Ecco, Zanella, nel tempo diciamo che la Franciacorta è cresciuta notevolissimamente. Oggi si può considerare un marchio Franciacorta? È un marchio perché nel mondo di questo tipo di tipologia di vino, quindi quelli che fermentano in bottiglia, ha sbaragliato il campo proprio perché ha usato solo il nome del territorio. Quindi il territorio nel vino e anche in questo segmento che in Italia era un po' confuso perché andava in cerca di metodologie produttive piuttosto che di radici, è diventato marchio perché proprio non sono state usate altri sinonimi, altre sigle, compreso DOCG che non ci piace più, anche se lo è, per cui basta il nome per capire cos'è un vino. Per cui il territorio ritengo che per i vini di qualità sia imprescindibile, e ovviamente il marchio diventa la garanzia assoluta del lavoro che fa un territorio. Ma io ti faccio una domanda molto pericolosa, ma conta di più quando ti presenti con Cala del Bosco o con Cala del Bosco Franciacorta? Ma io dico sempre che, per fare un esempio che è ancora più probabilmente importante, Romane Conti non sarebbe Romane Conti se non fosse in quel comune della Borgogna. La forza di un marchio si basa sulle fondamenta solide di una denominazione. Una denominazione che non pone delle fondamenta solide, quando parlo di fondamenta parlo di tradizione, di storia, di cultura, ma anche di regolamenti disciplinari produttivi, e quello di Franciacorta è il più severo al mondo, ci tengo a sottolinearlo, in questa categoria di vini, e se non hai queste premesse è molto difficile costruire la solidità di un marchio. Chiaramente il marchio è la garanzia del lavoro di una denominazione. Ma volevo chiedere a Geddes questo. Nel passato, 20 anni fa, ciò che contava era il vitigno, perché era la prima cosa che si poneva davanti a un consumatore. Diciamo che anche il produttore, la prima cosa che parlava, Chardonnay, Cabernet Sauvignon, la Barrique. Ma contano ancora questi valori? Era assolutamente vero quello che dici, perché 20 anni fa c'era anche un poco di scimmiottatura degli Stati Uniti, che utilizzavano il vitigno come modo semplice per far capire il tipo di vino che c'era all'interno, anche perché loro non avevano delle denominazioni forti conosciute dal consumatore. Il vitigno in molti casi si lega anche con delle denominazioni, fai il Pinot Grigio, fai lo spumante, vari spumanti, insomma lo stesso Prosecco che è sotto tre denominazioni, ma se uva è Prosecco si chiama Prosecco sia IGT che DOC e DOCG. e questo non ingenera veramente una confusione enorme sul, la ingenera per chi è affezionato a un determinato territorio specifico, ma il consumatore chiede essenzialmente prosecco. Per cui ci sono delle denominazioni che sono legate a vitigni, ci sono le denominazioni più storiche e forse direi di più alto livello, che sono come il Brunello e il Montalcino un vitigno solo, che è il Sangiovese, però nessuno parla di Sangiovese né si può mettere Sangiovese sulla bottiglia. Zanella, secondo te cosa conterà in futuro, appunto, quale sarà diciamo tra gli elementi che io ho indicato, vitigno, territorio, brand, quello che conterà di più in un mercato che si sta evolvendo, che sta cambiando, non ci sono dubbi, oppure il discorso bio entrerà di forza su questo, oppure senza solfiti ancora di più, tu cosa ne pensi? Credo che dei tre che menzionavi all'inizio il vitigno sia quello meno importante e quello meno da valorizzare, perché dentro una denominazione, parlo sempre di vini di alta qualità, è opportuno parlare solo della denominazione e non dei vitigni che la compongono. Devo dire che sono due culture diverse, quello del Nuovo Mondo che ha puntato molto sul vitigno per una facilità di comunicazione, anche perché c'era un mercato che non aveva cultura, e ha avuto grandissimo successo. Basta pensare agli esempi di aziende straordinariamente importanti che hanno fatto dei grossi boom usando il vitigno, ma che oggi sono in gravi problemi. Mi riferisco a aziende australiane o americane che hanno fatto del vitigno il loro cavallo di battaglia, ma mi sembra che non sia un percorso che abbia generato grandi successi. E quindi il vitigno, secondo me, è l'ultima cosa da valorizzare. Quello che credo sia imprescindibile, mi ripeto e mi scuso, è il binomio marca-territorio, che sono imprescindibili, dove evidentemente la marca la fa da padrone sul territorio, perché è evidente che tendiamo a valorizzare il lavoro che facciamo. Per quanto riguarda gli altri aspetti, sono un po' come il vitigno. È chiaro che l'enologia e la viticoltura sempre più si indirizzano verso prodotti che sono poco impattanti e rispettosi della natura. È un indirizzo obbligato, è una strada obbligata, ma mi sembra molto commerciale, pubblicitario e un po' forzato l'utilizzo e l'abuso di slogan bio, naturale, senza solfiti. La tecnica di cantina e quella in campagna ci penseranno, per le aziende che hanno a cuore la qualità, a fare questi processi in silenzio e senza sventolarli, ma farli concretamente. Ecco, sì, devo dire che questo è vero, nel senso che negli ultimi tempi, appunto, il discorso, io tra l'altro ho fatto diverse trasmissioni sui solfiti, e però sto notando che molte aziende lo stanno utilizzando dal punto di vista, se vogliamo, comunicazionale e pubblicitario. Questo perché probabilmente il consumatore molte volte, lo dicevamo prima, ha così fatto una correlazione tra mal di testa e uso dei solfiti, però questo sicuramente è tutto da dimostrare. Certo che meno solfiti si usano meglio è, però non credo che sia la causa determinante e unica del mal di testa. Sul discorso bio bisogna ammettere che diciamo che in questo momento c'è un grande interesse, perché non è un interesse solo verso il vino, è un interesse su tutto il settore dell'alimentare e anche della vita di tutti i giorni, quindi comincia in un certo senso a pesare. Bene, vediamo che il Vinitaly dopo anni ha dato uno spazio al bio, ha dato uno spazio ai vini cosiddetti naturali, e io sottolineo cosiddetti perché è molto importante questo. Quindi credo che ci sono dei nuovi, come posso dire, aggregati al territorio, al vitigno e alla marca che stanno nascendo, che sicuramente giocano un ruolo importante nel, diciamo, sul mercato e sulle chiavi di successo. Il gastronauta. Di nuovo buona giornata, cari gastronauti. Bene, avete sentito che il tema è il vino, un tema molto particolare. Quali sono i fattori di successo di un vino? Lo ripeto per chi magari si fosse messo solo ora in ascolto. Il vitigno, l'origine, il territorio, il brand, e poi aggiungo altri due, diciamo, recenti, che sono il fatto il bio e, perché no, anche la mancanza di solfiti. Diciamo che questi ultimi due sono gli ultimi entrati, ma sicuramente non hanno l'importanza degli altri, anche se rivestono una certa importanza. E allora ne stiamo discutendo un po' con coloro che sono i protagonisti del Vinitaly, ma diciamo aziende importanti, alcune che hanno fatto del loro punto di forza il territorio, l'origine, la tradizione, altri invece che sicuramente hanno ormai un brand riconosciuto nel mondo, e quindi che questo permette un accesso al mercato sicuramente molto, molto importante. Bene, con noi è Marco Caprai, produttore di Sagrantino di Montefalco. Direi un po', come posso dire, l'iniziatore del successo di questo territorio, che una volta così partito, come posso dire, il successo nazionale e internazionale dell'azienda Caprai, ha sviluppato sul territorio un effetto imitazione molto, molto importante, molto forte, che ha fatto, per così dire, sbocciare quell'area, anche se si produceva vino da anni, forse da secoli, sicuramente un vino però che non era molto conosciuto nel mercato, se vogliamo nel mercato internazionale. Allora Marco, io voglio chiederti questo: cos'è che ha giocato su questo successo? Un territorio, ma il territorio era poco conosciuto sicuramente, il vitigno è un sangiovese, quindi ce ne sono tanti, ma qual è stato il mix, diciamo, che ha fatto salire alla ribalta sia il territorio che anche il marchio Caprai, ovviamente? Beh, buongiorno a tutti. Innanzitutto l'essere riusciti a mettere insieme il vino, la varietà, il territorio e la qualità di produzione. Questo è stato negli anni, alla fine degli anni 90, quell'unicum che ha determinato il successo e anche l'arrivo di tante aziende nel territorio. Oggi Montefalco è un distretto del vino, è un distretto del turismo del vino, viene considerato tra le 10 destinazioni più importanti al mondo quest'anno da Wine Enthusiast. Questo fa sì che si costituisca le radici per avere ancora maggior successo all'estero. Chi viaggia torna a casa, vede con un'immagine diversa, ci permette di far conoscere i nostri prodotti e il nostro territorio in tutto il mondo. Ecco, c'è bisogno di raccontare delle storie che si rinnovino, e questo è fondamentale. Nella nostra storia gli elementi c'erano tutti, bisognava cucinarli insieme e trovare il giusto bilanciamento e far sì che gli altri se ne accorgessero. Abbiamo con noi anche Matteo Lunelli Ferrari, Spumanti Ferrari, e devo dire che qui sicuramente il marchio Ferrari, ovviamente oltre alla qualità del prodotto, ha giocato, non perché la Ferrari di Maranello, ma sicuramente un marchio che nel tempo si è sviluppato, si è fatto conoscere, quindi oggi possiamo parlare che il successo è il brand. Ma anzitutto buongiorno a tutti. Sicuramente il marchio è importante, però ritengo anche che il marchio diventa forte quando è capace di rappresentare, di raccontare dei valori. Credo che Ferrari, la forza del nostro marchio comunque sia stata costruita su un territorio, sulla passione di una famiglia, su oltre un secolo di storia legata a quest'arte di fare le bollicine, di creare il metodo classico, e quindi un marchio è forte solo se riesce a trasmettere un'emozione, una storia, una tradizione, e riesce a raccontare qualcosa. Nel nostro caso penso che la forza di questo marchio sia anche stata costruita sulla fedeltà dei valori, il legame intimo con il territorio trentino, perché Ferrari è un Trento DOC, è fatto solo con uve trentine, il fatto di seguire sempre il processo produttivo dalla terra fino alla tavola, il fatto che questo Ferrari è sempre solo stato un metodo classico, quindi abbiamo legato un marchio sempre ad un prodotto ben identificato, che poi i nostri consumatori, gli italiani, ma non solo, hanno sempre potuto trovare e riconoscere. Quindi è vero, il marchio può essere importante, ma mai da solo. E oggi, appunto, credo che la sfida per ognuno di noi che fa vino è quello poi di portare, di raccontare sempre nuove storie e nuovi valori. Oggi, come lo dicevi tu, c'è una forte attenzione ad esempio al tema della sostenibilità, e di questo è molto bello, perché per i tanti come noi che credono a questo, alla sostenibilità come a un valore, perché è un valore come tutela del territorio, è bello che oggi ci sia un'attenzione rispetto a questi temi, perché ci incentiva e ci invoglia a proseguire su una strada che abbiamo intrapreso. Ecco, hai così introdotto un nuovo fattore che io non avevo, di cui non avevo parlato, la sostenibilità. Credo questo sia sicuramente negli anni a venire, assieme al discorso che ho detto prima, biologico e senza solfiti, sia un altro motivo così di interesse da parte del consumatore. Ma come Ferrari avete aziende anche in altri territori in cui non usate il marchio Ferrari. Ecco, lì qual è la carta vincente? Il territorio? Il vitigno? È sicuramente, direi, prima di tutto il territorio. Tra l'altro mi fa piacere essere qui con Caprai, perché noi abbiamo anche un'azienda nell'area di Montefalco, produciamo Sagrantino. Di questo vitigno ci siamo innamorati per la sua unicità. Il Sagrantino in fondo è una sintesi perfetta tra territorio e vitigno, perché è un vitigno autoctono che esiste solo in Umbria e che riesce a raccontare una storia straordinariamente unica. Noi di questo territorio ci siamo innamorati, e quando siamo arrivati in Umbria abbiamo voluto fare un vino e costruire una storia che raccontasse quel territorio, magari con uno stile che piano piano abbiamo identificato, che è lo stile delle Tenute Lunelli, lo stile della nostra cantina, che abbiamo identificato volendo portare magari alcune caratteristiche di austerità, ma la forza di questo vitigno del Sagrantino deve rimanere nella sua identità e nel legame con il territorio umbro. Così abbiamo fatto anche in Toscana. Ti dirò che da trentini all'inizio qualcuno era scettico, perché hanno pensato a un tradimento, ma noi vogliamo, come gruppo Lunelli, costruire un gruppo dell'eccellenza del bere italiano, e la bellezza dell'Italia è proprio la diversità dei nostri territori, delle loro tradizioni, la diversità dei vitigni, e ci fa molto piacere poterlo raccontare attraverso delle cantine, delle aziende che ciascuna porta una sua tradizione. Recentemente, tra l'altro, siamo andati anche nell'area del Prosecco, abbiamo fatto un'alleanza, abbiamo acquisito il 50% di un'azienda che produce Prosecco Superiore, e anche qui, da produttori di bollicine, vogliamo raccontare qualcosa di diverso rispetto al Trento DOC, l'unicità del territorio di Valdobbiadene e del metodo Chardonnay. Ecco, lì devo dire che andate sul sicuro, nel senso che Prosecco, che è un vitigno, anzi non è un vitigno, no, Prosecco è un nome, ma è un nome che è diventato un marchio. Ormai Prosecco non è il marchio di un produttore, ma è il marchio di tutto il territorio e di tutto quel vino. Quindi diciamo che lì c'è veramente un brand che, guarda strano, non appartiene a un'azienda, non appartiene a un vitigno, ma appartiene a un insieme di territori addirittura. Mentre voglio tornare sul Sagrantino, perché Sagrantino in origine era un vino dolce, era un vino da dessert, era un vino dolce. Diciamo un processo inverso che ho notato qui al Consorzio dei Vini d'Abruzzo, perché hanno presentato un passito a base di Montepulciano d'Abruzzo, quindi mi sembra che siano storie che vanno una all'incontrario dell'altro. Ecco, ma appunto c'è questa grande diciamo trasformazione che c'è stata. Non si può parlare più di tradizione in questo caso, si può parlare di un qualcosa che è cresciuto anno per anno dagli anni 90 in poi. Beh, tanto è rinnovare le tradizioni, sono importanti, però bisogna sempre rinnovarle, e l'innovazione determina anche il costituire nuova tradizione. In Italia di questi esempi ne abbiamo tantissimi, sicuramente noi siamo zona appenninica, quindi di vini con questo carattere se ne produce uno un po' in tutto l'Appennino, forse anche un po' la Vernaccia Sierra Padrona, se andiamo a vedere altri vini con queste caratteristiche. Il Sagrantino comunque già nel 1920 veniva vinificato come vino secco. Montefalco nel 27 c'è un'esposizione che era la più importante della nostra regione, si parla di Sagrantini secchi, quindi era un'innovazione. Beh, no, forse già c'era da prima. Ecco, l'importante è trasmettere nelle bottiglie valori, trasmettere storie belle, verificabili, toccabili con mano. Questo è molto importante, il turismo del vino, e costituire le condizioni per rinnovare continuamente le nostre tradizioni. Noi abbiamo fatto questo lavoro, il territorio si è prestato molto perché c'erano tutte le condizioni per farlo, l'arrivo anche di grandi gruppi, di gruppi che erano fuori dalla nostra realtà, ha fatto sì che Montefalco piano piano diventasse una tourist travel destination, e questo è ancora più importante per il futuro. Matteo, io voglio fare una domanda cattiva. Chi fa metodo classico ha sempre considerato il Prosecco, diciamo, un vino non all'altezza dei grandi spumanti italiani. Invece mi sembra che il successo nel mondo stia parlando veramente di uno straordinario, di un vino che ormai si sta affermando ovunque. Ma allora, io credo che un grande vino è espressione di un territorio, è quello che stiamo dicendo adesso anche noi, e quindi il Prosecco ha la sua identità che deriva proprio dall'unicità del territorio di Valdobbiadene e da uno stile che è assolutamente diverso. È ovvio che io non voglio fare paragoni, il Trento DOC e il metodo classico hanno un loro stile, una loro filosofia, ogni bottiglia ha un episodio unico perché ha la rifermentazione in bottiglia, il Trento DOC è espressione di un'agricoltura di montagna che porta un vino elegante, estremamente longevo. Il Prosecco è un vino più giovane, un vino aromatico che deve avere tutta altre tonalità. A me piace pensare, non so, che ogni tanto ci sono delle occasioni in cui una donna si vuole vestire con l'abito lungo e magari c'è una festa in smoking o in abiti formali, ci sono altre situazioni in cui a tutti noi magari piace vestire un jeans e un qualcosa di più casual. Mi piace parlare di differenza e di territori, sicuramente il Prosecco nella sua semplicità piace perché è in linea con uno stile di vita moderno e molto, molto amichevole, molto sociale. In generale il successo delle bollicine, questo mi dà grande speranza per il futuro, è anche legato al fatto che sempre di più il vino si consuma nella convivialità, lo fanno i giovani. Il Prosecco da questo punto di vista è straordinario, però mi piace parlare di Prosecco superiore, poi, perché se parliamo di territorio, all'interno del Prosecco c'è un territorio che è la DOCG, che è il territorio evocato, dove secondo me si racconta in modo particolarmente efficace l'unicità del territorio. Beh, io come comunicatore faccio una previsione: non ci si riuscirà mai, perché il Prosecco è un marchio, è un brand, sì, che è nato spontaneamente, e credo che magari ci fossero stati dei comunicatori aver costruito un successo di quel genere, ma ormai è Prosecco e credo che sarà molto difficile poter far capire al consumatore di tutto il mondo che ci sono, certo, ci sono Prosecchi migliori degli altri, ma io credo che in questo caso, forse per la prima volta nella storia del vino, non sarà il territorio ad essere, diciamo, vincente, ma sarà questo marchio, che non è un vitigno e non è neppure un territorio, perché ormai è talmente grande. E quindi credo che sarà un caso unico, molto interessante anche da studiare nei prossimi anni. Ma è una bella sfida, è una sfida, però penso che su questo grande successo del Prosecco vadano anche costruite delle storie di marchi, di cantine, che poi all'interno di questo territorio costruiscono sicuramente una storia di successo per la qualità. Ma Prosecco farà agio su tutto, io penso. Il gastronauta. Eccoci di nuovo a parlare di vino. Quali sono i fattori di successo, soprattutto in questo momento? Abbiamo visto, e io lo ripeto perché sicuramente è un po' il tema di tutta la trasmissione, che si è passati anni fa, quando il vitigno era vincente, soprattutto basandosi sui modelli internazionali. Chardonnay, Cabernet Sauvignon hanno dominato per anni e sembrava che quelli fossero, diciamo, le chiavi di successo, sono i marchi di successo. In realtà poi diciamo che la trasformazione è avvenuta nel tempo. Il territorio è sempre stato importante, però ha preso sempre di più importanza, e il brand è sicuramente un altro grande fattore di successo, ma negli ultimi tempi ci sono state anche altre motivazioni: sostenibilità, il fatto di un vino di essere biologico, e anche il discorso senza solfiti ultimamente ha preso davvero molto molto molto piede. Allora io vorrei chiedere al presidente delle Colline Teramane, Nicodemi, di dirci la sua su questo. Secondo lei le Colline Teramane come territorio possono essere solo un fattore di successo, oppure è il vitigno montepulciano d'Abruzzo? Allora, sicuramente partiamo dal vitigno, questo è indiscusso. Sicuramente la bontà deve partire dalla bottiglia, ma oggi come oggi credo che altre regioni enologiche ci hanno dimostrato che il valore aggiunto ai nostri brand personali, aziendali, deve esserci dato proprio dal brand territoriale, che può conferire ovviamente a tutte le nostre aziende un valore aggiunto in più, un valore aggiunto che appunto deriva anche nell'identificazione ben specifica di una zona d'origine e di provenienza. Bene, abbiamo con noi anche Caterina Allegrini, che rappresenta un'azienda che è presente su diversi territori italiani, in Toscana. E sì, in Toscana e in Veneto. E in Veneto, quindi due regioni, addirittura in Toscana, in due parti della Toscana ben determinate. Bene, in questo caso non è tanto il brand Allegrini, forse sono i territori, oppure il brand Allegrini gioca diciamo un ruolo molto importante sul successo? Ma noi teniamo molto al territorio, la Valpolicella classica è fondamentale per la produzione dell'amarone e del recioto, quindi siamo molto legati al territorio e soprattutto all'integrità del territorio, a valorizzarlo. La stessa cosa abbiamo cercato di fare in Toscana quando nel 2001 abbiamo acquistato dei terreni da cui è venuto fuori l'azienda Poggio al Tesoro, e la stessa cosa abbiamo cercato di fare a Montalcino quando abbiamo acquistato San Polo. Quindi valorizzare il territorio, e secondo me il territorio è la cosa fondamentale. Valpolicella, Bolgheri e Montalcino sono dei territori che per il vino sono perfetti, ecco. Quindi diciamo che sul fatto Veneto ormai siete un fatto, come posso dire, un'azienda affermata, usate il brand Allegrini, mentre sicuramente nelle altre due regioni dove non eravate presenti, quindi non avete una storia e una tradizione, diciamo che fate puntate molto sul territorio, se ho ben capito così. Esatto. La strategia. Sì, sì. Ecco. E Nicodemi, ma il fatto secondo lei biologico, ecco, il bio in futuro sarà molto importante, diciamo che farà agio sul territorio, sul vitigno, oppure il territorio e il vitigno giocheranno sempre il ruolo principale? Io credo che il territorio e il vitigno avranno sempre un fattore predominante. Voglio un attimo agganciare al discorso della produttrice, giustamente. Allegrini è un nome noto, notissimo e strafamoso. Però se noi parliamo con un comune consumatore, probabilmente non hai a mente tutti i grandi amaroni che vengono da questo territorio. Ma l'amarone è un brand territoriale che sicuramente sovrasta anche un nome, diciamo, grosso e famoso come Allegrini, portandogli però di ricaduta un valore aggiunto e anche un valore commerciale inestimabile. Per questo la valorizzazione del territorio credo che deve essere sempre predominante anche sulla valorizzazione diciamo, del brand della propria azienda per certi versi. Il discorso del bio, ripeto, è un discorso secondo me veramente privatistico. Ogni azienda deve decidere come coltivare, come vinificare e come appunto poi proporre il proprio prodotto. Il territorio in questo non può essere non può prevaricare ovviamente le scelte di un produttore. Quelle sono scelte aziendali che lasciano ovviamente la libertà al produttore stesso. Caterina, lei cosa pensa per il futuro? Che i vini cosiddetti naturali, il biologico, saranno importanti? Sarà questo un fattore di successo? Oppure che col tempo, diciamo, ritorneranno i valori di sempre? Appunto, abbiamo detto vitigno, abbiamo detto territorio, abbiamo detto brand. Io sono del parere che territorio e vitigno saranno sempre la cosa più importante. Poi si possono fare, per quanto riguarda i vini biologici, degli esperimenti che noi ad esempio abbiamo fatto con i vini senza solfiti con Riccardo Cottarella per quanto riguarda la nostra azienda Montalcino. Però io credo che si possano fare degli esperimenti, e se riescono è una cosa molto importante e giusta. Però in ogni caso territorio e vitigno secondo me devono restare la cosa più importante e la cosa da valorizzare. Ecco, negli ultimi anni il Montepulciano d'Abruzzo come vitigno e anche il Trebbiano d'Abruzzo come vitigno hanno avuto un grandissimo successo. Forse perché, questa è una domanda cattiva, sono spariti così i grandi entusiasmi per Chardonnay, Cabernet Sauvignon, quindi vitigni cosiddetti internazionali? No, io credo probabilmente che appunto nella convinzione della dicotomia vino-territorio anche noi, diciamo, produttori nella nostra regione abbiamo sempre più puntato a vitigni autoctoni, quindi anche nei famosi reimpianti o nuovi impianti fatti si sono lasciati perdere quelli che un tempo erano famosi vitigni internazionali puntando appunto ai nostri vitigni, vitigni che esprimono un territorio ed esprimono ovviamente i veri valori di un territorio. Un vitigno internazionale sappiamo perfettamente i suoi pregi ma anche i suoi notevoli difetti. Ecco, Consorzio Vini d'Abruzzo, negli ultimi anni avete fatto un grandissimo lavoro per farvi conoscere, quasi che all'improvviso abbiate scoperto che il mercato, abbiate scoperto diciamo un modo nuovo di comunicare. Cos'è successo? Ma diciamo che oggi, tra virgolette, la classe dirigente del mondo vitivinicolo ha deciso di investire, io dico sempre, più che per comunicare, per farci riscoprire, perché il nostro Montepulciano, ce lo dicono le statistiche, è uno dei vini più venduti. Magari è sempre stato conosciuto con un alone medio-basso, oggi noi stiamo puntando a far capire che appunto è un grande vitigno da un grande territorio e quindi può essere, deve anche essere annoverato fra i grandi vini e i grandi vitigni. Torniamo a Caterina Allegrini. Bene, voi avete dei territori insomma che parlano da soli, perché la Valpolicella e Montalcino. Devo dire che sono mercati forse molto, molto più facili dell'altro che avete in Maremma per essere diciamo conosciuti sul mercato, per essere presenti sul mercato. Ma Allegrini ormai viaggia per un binario e ormai è un brand molto conosciuto. San Polo, a Montalcino abbiamo cercato insomma di instaurare anche un rapporto facendoci conoscere come produttrici, come produttori anche della Toscana. Con Poggio al Tesoro invece in qualche modo è una zona più complicata, però dà dei grandissimi vini e ci sono delle grandissime aziende, ad esempio Ornellai, Antinori, siamo di fronte alle Macchiole, quindi secondo me è una zona che può dare molto. Quindi sicuramente in questi casi è, come posso dire, fare sistema sul territorio, questo è molto, molto importante. Nicodemo, ma la sostenibilità, si sente sempre parlare di sostenibilità, che rapporto c'è con il mondo del vino? Come la vivete voi produttori? Ma la viviamo diciamo intensamente, perché noi lavoriamo con l'agricoltura. L'agricoltura ovviamente è alla base di tutta la nostra società. Fare una conduzione sostenibile o ecosostenibile non solo dei vigneti ma anche nelle conduzioni in cantina, per esempio tanti nella nostra zona hanno fatto degli impianti fotovoltaici sui tetti, non a terra, proprio per la sostenibilità elettrica diciamo degli impianti stessi. Per noi è un elemento di sicuro valore aggiunto a tutta la filiera produttiva. Beh, devo dire che ha toccato un tema importante che io non ho dimenticato, ma lo avevo fatto diciamo di proposito, l'agricoltura. È evidente che si può avere il territorio diciamo più conosciuto al mondo, il vitigno migliore al mondo, ma se il vino non nasce in vigna e non c'è un'agricoltura di base, probabilmente tutti questi fattori di successo di cui abbiamo parlato sicuramente servono ben poco. Lei cosa ne pensa? Si cerca in qualche modo, secondo me, di lavorare con la natura e non contro la natura, e quindi di avere sempre più attenzione per quello che è la salvezza e la salvaguardia del vigneto, del terreno e della zona in cui noi produciamo. D'accordo. D'accordo, quindi sull'agricoltura tutti sono d'accordo. Beh, speriamo che questo sia così un buon segno per tutta la produzione del vino italiano, che bisogna dire che anche quest'anno ha avuto uno straordinario successo nell'edizione 2014 del Vinitaly, e speriamo che questo sia un segno positivo per la ripresa dei consumi anche sul mercato interno. Bene, il vostro gastronauta vi saluta, vi dà appuntamento sabato e vi augura buon weekend a tutti.